No, Antonio no! Antonio fa Pedro però! Cazzone! Pedrone fa, Pedrone! Boh, cosa vuol dire questo Pedrone? Cos'è? Chi è? La canzone si intitola Pedro. Pedro, Pedro, pe. Quindi, capito? Ehi, ho capito. Io devo fare la carra, almeno per quanto posso. Ho capito, sa. Io devo fare la carra e lui deve fare Pedro, capito? Ecco, tu fai la carra e Antonio fa Pedro, ho capito. Però pomodori niente, né pomodori né uova né arance guasse, niente, nulla. Meno male. Tu cosa ti porti? Mi porto la sirena dell'ambulanza e il fischietto. No, non ci credo. No, solo il fischietto, basta, basta che non mi manchi l'acqua da bere. Però io voglio gli applausi, non il fischietto, Il fischietto, vabbè, purtroppo ci sono tante persone. Sicuramente noi mo' ci vedi. Io vedo solo quelli della prima fila, della seconda, poi adesso non si vede, soprattutto non si vede. Infatti noi siamo su. Ah, ok. Comunque, sono andato a Pacomona a fare una visita per la tiroide. Ah, a posto? Un po'... Cavolo. Vecchia, sono una vecchia. Fra un po' sale Pedro, Kappa Kappa. Arrivo subito, Luca? Ci sei? Sì, tu, ero in bagno, ero. Sono qua. Ehi, ecco, sono rientrato. Forse non ho mai fatto il karaoke con questa Tocianna. Bravo è come karaokista. Sì, anche tu. Cioè, è bravo mio, dai, è bravo. E lui canta Sassalegge anche, capito? No, ma ti fa un salto. Tu, se ti trovi bene, pazienza, no? Non è che... Non costa niente. E ogni giorno entriamo... Non costa niente. Provare... Infatti lo dice la parola stessa, costanzo non costa niente. Ascolta, come si dice? Proviamo dai. Proviamo a vedere com'è la situazione. Perché, ma cosa usa? Qual è il cazzo della stampa? Usa le sue casse. Si usa quelle piccoline, ma zocca, già c'è un impiantino, c'ha due microfoni, già è buona la microfonia. Sempre meglio quella di Giuseppe, già è, solo di ragazza di Aletta. C'ha due casse piccoline, poi non so se portavo la grande, boh, non lo so, questo non te lo so dire. Io di solito l'ho visto sempre con la cassa piccolina. Ma stai facendo te? Niente. Stasera tanto, io stavo tagliando i pelucci delle orecchie, no? Beh, si è stato questo gioco di orecchie, poverino. Certo, quindi va un gran gessato. Si è fatto di palle che gli stava facendo sempre il sangue. Vabbè, adesso gli si è bloccato, deve essere un cerotto. Prima gli ho messo lo zucchero, perché lo zucchero blocca il sangue. Vecchi metodi che mi diceva mia madre. Sì. Perché si è tirata di scatto. E c'ha il visto di gin di fa così, cazzo, va. Tanto di coglioni. Vabbè, aspettiamo adesso a... Lascio così. Aspettiamo verso maggio. Metà maggio, dai. Quando inizia il caldo. E così la... Come si dice? La faccio tosare, 30 euro, 25 di fatto. E me la tosano, me la fanno bella bella. Roba come c'è anche la reccia che su Bova Lugano. Fa, aspetta un attimo, c'ho un messaggio di Marina. Marina mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che era a letto. E ho detto, io sono a grammo. Se non c'è nessuno, eh. Chiaffa, a grammo sì. Ce l'ha a letto, io a grammo. Dai, vediamo questa cosa domani, va. Uia. Questa cosa domani. Quando lo farò io il karaoke sarà tutto diverso. E Dio mi porta le casse buone. A tu, sai cosa è? Devi esercitare. Capito? Per imparare più a usare il programma. Perché non tutti i programmi sono uguali. Sono di stare lì a cercare la canzone, invece meglio che le carichi e vanno in automatico. E tu poi dopo che chiamare la persona che deve cantare e parte in automatico. Capito? Se eserciti un po', già non è difficile, l'avevo fatto il karaoke, l'avevo già detto. Così me l'ho chiamato all'improvvisata. Io adesso... Adesso piano piano devo prendere il computer e me lo installo, faccio un karaoke, me lo faccio installare, vediamo un po' cosa cazzo va. Facciamo una bella cosa e non una cagata. Con tutti i brani, un hard disk esterno comprerò e ci mettiamo tutto dentro. Una cosa fatta bene. Ah beh certo. Chiappa. Ma non per niente, però, fate il karaoke, mangia. Comunque cosa tu stai dicendo? Non è male, cioè, come lo fa Giuseppe, non è male il karaoke. Ho sentito di peggio. Ehi, tu dove sentiamo ci sono gli altri microfoni, per carità. Si sono cambiati i microfoni, ma i scia mari, male, proprio un audio pessimo. Adesso si è proprio dei buoni microfoni ci ha comprato. Audio design, costano un bel di dinami. Cioè, avere la coppia mi pare che costa 80 euro me. Adesso, ma prima, quando ha deciso di farselo lui, perché prima glielo faceva Maurilio, poi chiamava questo Marco Scambu, poi questa tipa, se non mi ricordo, un altro tipo ancora. E adesso ha deciso di farselo lui. E Costantino, un bel imbe di voce. Maurilio. Dici che si esce di mare con questo. Va. C'è un inghinuso. Non è la cura migliore. Ma fa caccia. Me l'hanno detto, ma. Se l'ha mandato in ora mala, te l'ha mandato. Ma se ho saputo qualcosa. Quella figlia, bisogna rimanere poco, ma. Se mi si rizzendi con pinghinoso puro. Ah, per carità. Ma Marco per la bomba fa karaoke. Usci. Mi piace di vista sui microfoni. Ah, qui non sto scherzando, per carità. Pucci. Almeno sì. Cazzo, tu, chiedimi sulla parola. Cosa cantava quella mincia, Ghiccio? Che c'è cazzo di sorriso? O ci sia la Edu che butta la bocca? Ma quando mai? Io, arrata, questa renega, sarei fatto bene a funnelli che si incontra. Mi cappuccetti a papà, ma per pericolo che mi direi sul viaggio, cazzo. Carità, pucci. Oh, mia cazzo. Boh, andiamo bene oggi. Boh. so che c'era uscito con Tesci Domare con coso. Con lei, con... ma... mamma libera me. Non lo so. Non lo so dire, però... forse è stata un po' debole lei, quanta cazzo vuoi un tipo del genere. Se mi si vede che dai che ti ripelli. Allora è una persona in gamba, quello che c'ha adesso. Chi non lo conosco, non lo so, ma da quanto mi dicono in giro, è una bella bella, curami. Tanto io sono qui di muro. E là, Maurilio. Che si va? Ah, sì, no, ma è un bravo ragazzo, qua, la verità. Un rimbosso di nonda, se no te lo fa fiago. Ma, sei un cazzo di Tavernello, va. Marco di vite. Ehi, pomponio. Mia pompetta, vabbè, pompo. Cazzo. Ho visto la prima Ucraina, cazzo, che sta cercando uomo e altro su Facebook. Preparatevi, cazzo, adesso. E ce ne saranno un bel po' che cercano soldi. Cosa di tirare a casa d'uglia? Sì, così si muove di cude, si dà una palla dalla scala. Ehi, andavo, cazzo, c'è uno che ha scritto, gli ha dato subito il numero di telefono suo. Ma come fate a travagliare che da maniera? C'è un grido, voglia. Capito. Non sapevo che finiva, che andava a finire così, ma adesso per arrivare in Italia, ma cosa che fanno è quello? Andare in Italia a lavorare. O le barmi. Anzi, non le barmi, i circoli. Vado anche a travagliuccio e sta bene, poi tranquilla. E cosa devi fare? E vabbè, anche se sono così bisogna sempre trattarli bene, il bastone. Sì, quello sì, ma vabbè, ci sarà da vivere perché ci saranno gli accattoni al bancone. Vedi una mitraglietta, gli ambattisti, cazzo, tutti assieme, come le zanzare, cazzo. Si agganciano. Ah, ti Luca. Mi ha mandato una, va, di messaggio, cioè, si chiama Sofia Caron. Sofia Caron, vabbè. Ciao. Coccoia, che ne ha bisogno, gli ho scritto, e lì non ti capisco cosa stai dicendo esattamente qui. Io quando l'umacchio, ok, sei sposato o fidanzato, single, sono single fidanzato con palloncino, perché, ok, cosa cerchi, non mi hai più riposo. Già l'ho visto quello che hai mandato. Cazzo, sono tutti su TikTok, e su Maria, tutti mi mandano, tutti su WhatsApp, però sopra la matessi persona. Su WhatsApp lo possono fare perché non incontrano nessuno, su Facebook no, hai capito? Poi già lo sai, c'è sempre il trucco, vai in bagno, fammi vedere quella cosa tua e io ti faccio vedere quella cosa mia e poi ti arriva la mazzata. Oi, per carità. Povere loro, cazzo. Ecco, ma questa gente è malata, ma non so vivere in pace. Ma chi tu Putin? Era tranquillo, no? Doveva fare la guerra. Cioè, dal 2022 siamo ancora con queste cazzate, questi casini. Guarda che dal 2012 che doveva finire il mondo, al 2022 si sono sbagliati appena calcolando, ma comunque ci hanno quasi azzeccato, Mi stava decifrando il coso dei Maya, quindi, ma tranquillo, abbiamo gli UFO che non permettono di fare una cosa del genere. Non sai quanti ce ne sono in Ucraina che stanno distruggendo i carri armati la notte. Adesso a uno li stanno massacrando. Questa non è che cosa che può fare, piglia solo una bomba nucleare a far casino. Se no non va manco gasolio, va. non vale né benzina né gasolio, ma alimenta le cigare armate. Dai, adesso vediamo un po'. Quanto sembra che hanno affondato tutte le navi adesso. Stanno arrivando i nazi che stanno andando gli americani per affondare le navi. L'unica cosa sono gli aerei, capito, l'auto e balle. Ma già si arrangeranno per gli aerei. Ce n'è uno solo di ucraino che fa il top gun la notte, a buio. Ma stava un po' nere, come si rivede in qua? Non facciamo anche il tempo a sganciare la bomba nucleare, Ed. Lo so. Hai visto invece quello della Nord Corea? Cazzo, ogni missile l'ha lanciato. È arrivato in Giappone. Arriva giusto giusto agli Stati Uniti, arriva. E gli Stati Uniti gli hanno già detto, come me lo lanci, immediatamente ti facciamo i buchi dove ci sono le rampe di lancio. Ma sono fuori brincare in aria a Mosca, vorrei che ne avvini. A Mosca sono tutti girati di male, c'è la motivamento in corso, cioè, capito? Quindi si arrangiano. Ui, ui, fa la fine di Hitler, te lo sto dicendo, rimala dentro a buca e si ammassa, te lo dico io. Che non siamo così in macchina, ma sta andando direi, dummi. Gli americani alla cua, ne rampa di una, li sterminano tutti, si va a tagli. Non è la fine. Dai, tranquillo, gli UFO non glielo permettono a fare una cosa del genere. Ce l'abbiamo già sopra la testa, già l'abbiamo visto. Ho visto la foto oggi. Ci abbiamo una specie di capo, non so che cosa, e solo che la nave madre non la vedi, avevo visto la ISS, c'è una specie di coso di colore celeste e bianco. Quindi tranquillo che glielo fanno loro. Ah, grazie, grazie. Io ci credo, non ti preoccupare. Sai quante ce ne hanno trovato di roba. Uiuia. Ma che macco e buco, cioè, ma adesso non era tranquillo, non doveva munirsi con questi missili nucleari a far danni, a girare balle, cioè, ma non lo so, adesso sicuramente c'è il modo per fargli danno a vita niente. Il Covid gli ha fatto male, non ti preoccupare, avanti Luca. Ehi, già crema, voluto. Ha saluto a Zelensky, cosa ha scritto? Dice, mi faccio il corso accelerato per ammazzarvi da soli, non c'è problema, l'addestramento, perché si sono impantanati in mezzo alla cosa. E non riesco, si stanno tutti fuggendo, si arrestano. Solo che se trovano in fatta li ammazzano, hai capito questo discorso? E quindi si sono ammazzati di azzurra, come le zanzare, come le mosche, cazzo. Ma è facile. E vabbè, comunque. Crepa, tranquillo. Crepa, sì, che arriveranno a, come si chiama, non so cosa scegli gli americani, sta tranquillo. Cioè sarà più di uno americano di lì. Hai capito? Hanno sempre fatto così, come l'ha fatto con Saddam Hussein, fanno a lui. Lui c'ha paura di quello. Perché lui si rintana, detto a un coso, lo trovano e lo impiccano. Lo mettono in mezzo alla piazza, è quello che lui c'ha paura. Infatti, signor ammazzali tranquillo. Dice che alcune cose dice che ci hanno provato a mettergli anche il veleno. Ma c'è gli assaggiatori, cosa vuoi che facciano? Bisogna che lui vada fuori, capito? Tutto va magari uno di quei cuochi pagati dalla come si chiama? E poi a lui la patta avvelenata. Non ci vuole molto, come faceva lui agli altri, ma ci vuole poco, una mutanda che usa lui, tanto per dire, come ha fatto con quell'altro che l'aveva dato così in aereo, capito? Una mutanda radioattiva, un pantalone radioattivo, lui se lo infila, toc, e fu tutto, e si avrebbe da solo, altro che mangiare. Non lo so, ma adesso... Perché non se ne è stato tranquillo invece di fare guerra e gasini cioè, a fare gli ultimi anni di vivere tranquillo, invece no, sono sempre a rompere le balle. Lui non sa cosa cazzo fare, il discorso è quello. Speriamo solo. Intanto la benzina ce l'abbiamo, c'è la benzina, il petrolio ce l'abbiamo, il gas ce l'abbiamo, l'unica cosa da fare è mettere in funzione tutto quello che c'è sull'Adriatico. E noi stiamo bene, campiamo di rendita, posso dire pagare la benzina, 2 euro, pagheremo 1 euro al litro come fanno in Arabia Saudita, e anche di meno. E così anche il gas. Ci abbiamo tutto, perché il problema è quando hanno fatto questa specie di referendum, i verdi non hanno voluto fare nulla. Adesso siamo obbligati a rimettere nuovo, cioè a chiamare l'ENI, metterci i tubi del gas, collegarli a un gasificatore direttamente, e poi da lì parte direttamente il gas per tutta l'Italia. Il discorso è quello. Non è che ci voglia questo gran cenno. Il petrolio ce l'abbiamo, il coso a Cagliari, dove da petrolio lo trasformano in benzina e gasolio, come ce l'hanno anche su in Alta Italia. Quindi ci abbiamo un bel roba in Italia, solo che non vogliono trivellare, perché i verdi devi lasciare il tratto verde, capito? Adesso siamo in mezzo alla merda per colpa loro. Tutti cazzate che ditene. Carità, uia. Però cavolo, bisogna fermarlo che sono fuori di gabbo, cioè perché no, cioè adesso sai cosa ci hanno guadagnato, che se magari queste cose vanno avanti, se adesso c'è la guerra, i russi saranno delle persone che scarteranno, sarà uno scarto del mondo, cioè, ci hanno guadagnato quello, cioè mica è una cosa brutta a me. Lo so, adesso i russi lo tireranno, eccetera, eccetera, questo è logico. Si sono arricchiti i capitani dagli altri, come si è arricchito anche Putin. Mi dicevo allora che morirà, che farà casa sua, farà la fine di quella di Gheddafi e di quell'altro, che c'era in Libia. Tutti i rubinetti d'olio se li portano via, non ci rimarrà nulla di quella casa, te lo dico io. Per carità, ma io dico questo, ma sei tranquillo, non fa casino, non rompere le balle, no, sto vedendo poi prendere un sangue queste passaggi, che ci scemo di guerra. Purtroppo è così, ci dobbiamo tenere la cosa come stiamo. E quest'anno che gli è venuta la crisi politica, questa cosa non ci possiamo fare niente, a fotti di gatto. Vediamo come andrà, cosa ti posso dire. Se no ci arroviamo tutti. A un certo punto è da biglia in culo. Avanti Luca. Luca a me lo cazzo si diverte, tromba cazzo con l'Ucraina, cazzo. Allora, la tromba usa allora. Usi la tromba, cazzo, tutti picchia cazzo. A me mi tira cazzo il mantello cromatico se muore. La moglie cazzo deve tirare il macete a testa. Cosa? Ho detto, a me Simona mi tira detto quello che c'ha il mantello cromatico, quello che c'ha a casa. E detto, invece la tua fidanzata, ha detto, ti tira qualcosa in testa, qualche altra cosa in testa da te. Quindi dobbiamo fare la brava, io sono 28 anni ormai, fidanzato. Infatti come se fossi sposato, mi dura di due. 28 anni, uiuia, ce l'ha passato il tempo. Lo so, e tu quanti anni sei tu? Adesso 6 anni, vero, sa? 6 anni. Figurati, guarda, io quando l'ho conosciuta, ma ti parlo di un sacco di anni fa, l'ho conosciuta su al circolo della Berghiera, la verità. Fu da lì, mi ha detto, Mario, guarda che vuole a te, allora ci siamo messi assieme, l'ho presentata a mia madre, eccetera, eccetera, non è che mia madre era favorevole, la verità, era contraria, mi voleva una persona che aveva soldi, istruita, eccetera, eccetera. Poi, dopodiché, siamo andati d'accordo così, capito? L'ha visto a casa. Vabbè. Meglio quelli che ci ha fatto la duia. Beh, quello sì. Oh, già ne ho conosciuto la ragazza, anche insieme a lei. Quando siamo andati a vivere da soli al centro storico, di tutto di più c'era solo da vivere, cazzo, dalla mattina alla sera, perché siamo tutto fatto pieno, hai capito? Quindi suonavo il cappello lì, a volte pronto a semi, faccia, tu sali che già te l'ho in mano. Bei tempi quelli, no? Bei tempi sì, con le brasiliane a fianco, mangiavamo sempre bistecche, ci divertivamo. Sapete, non saliva manco un cane a fare i furti, faceva la porta aperta, mattina e sera stavano sempre da una parte e dall'altra. Come stavamo, volte cose, tutta una famiglia. Era bello così, già. Adesso poi lascio la porta aperta con questi negri, sali uno, altri ti svuota l'appartamento, un tipo Marco Filano, hai visto questi tunisini, queste cose, capito, vanno in giro a violentare le ragazze, adesso, l'aveva pigliato a uno, l'aveva tagliato il pisello, guarda, l'aveva lasciato solo le palle, il resto le avevi tolto. Per carità, ma Luia, primavera Brasil, prima sì, ma a me non erano cattivi con questi extracomunitari che ci sono adesso, ho capito? Non c'era tutto questo granché di violenza, hai capito? Per quanto mi ricordo io. Le brasiliane facevano il loro lavoro, i pastori andavano lì, si facevano la loro festa ogni fine settimana, venerdì, sabato, domenica, salivano a Sassari, si facevano la loro vera e poi la domenica diventavano nuovo a lavorare. Verità qui, adesso invece è tutto cambiato, capito? Peccato, ormai non c'è più nessuno, di solito erano tutte brasiliane, anche trans, c'erano, in verità si trovava anche trans, ma però non c'era questo spaccio di droga che c'è adesso al centro storico, non ti puoi filare, manco di uscire fuori da casa, non sai che ti tolgo le portafoglie, ma stai scherzando? Oppure ti mettono in mezzo una falatoria e ti passi burudu, se passi. Vabbè, già lo so già. Ma tutto anche tuttora i campagnoli salgono sempre a cercare queste qua. Ma in questo vita del Manuele non ce ne sono più. Tantomeno in via la Marmola, via Coso, Corso Vico, eccetera, eccetera, la zona, quella vedi le muraglie, tutta quella zona lì è piena, capito? Adesso sono negri e basta, vedi, non vedi altro. Quello da fare è più morto che vivo, in teoria, perché prima a me lo vendeva bene, quello che c'era in via San Donato, adesso con coprifuoco che c'è, lui alle 8 e un quarto ha già serrato, ormai è rimasto fregato, prima chiedeva le 10 e mezzo di 11 mesi. Figurati i circoli che c'erano di Raimondo, che in questo momento Emanuele, chiedeva a mezzanotte, anche alle 2 di 3 mattino chiedeva. Era una cosa tranquilla, il bar la stessa identica cosa, sempre pieni. Oh, vabbè, è successo quel fatto di conosciamo di fronte a casa, ma era non c'era altro questo granché, capito? Ah, dove, ma come mai non dove abiti, cioè come mai non ce l'hai avuta subito quella casa che dove abiti adesso? È tentato così tanto? Perché l'avevo affittata per 4 anni, hai capito? Quindi ho dovuto aspettare. Prima ho dovuto stare in questo vita di Manuele, dopodiché era lì versando l'atto e poi direttamente qua. Capito? Ma mi ha detto, vieni qua, la casa l'ho liberata, mi ha mandato la casa, salite su, mi ha detto. E così ho fatto. Sono salito su e mi sono installato, vabbè, l'antenna ce l'ha già la prima. Comunque. Sono venuto qua a abitare. Ah, perché prima abitavi lì. Vabbè, non paghi niente, non paghi affitto, è meglio così. Vabbè, io ho pagato l'affitto con 5.200 euro. Avevo fatto, c'era presente quelle assicurazioni che si facevano una volta, l'avevi conosciuta, no? Allora c'era il periodo che si doveva farti l'assicurazione per arrivare fino a 80 anni, cosa del genere, e poi ti ritravi tutto d'un colpo, per dire la pensione, la seconda pensione. Ecco, io avevo fatto quella, e che poi era una bella fregatura. L'avevo fatta perché era venuta una ragazza CB che parlava baracchino, e si chiamava Luciana, si chiamava, abitava lì nella griglia, quindi figurati, e gli ho detto vabbè la facciamo, gli ho detto, poi gli ho fatto quei 5-6 anni, non di più, dopodiché gli ho detto no, ecco, cominciava piano piano, ogni anno aumentando, gli ho detto che tu questa la presa per il culo. Ogni volta detto, perché c'è questo aumento? Perché bisogna, è aumentata l'inflazione, bisogna che ci dai di più, hai capito? Allora Tasco fa una cosa, detto, più di tutto, dammi quello che mi devi dare e vaffanculo. In pratica 5.200 me li sono ritirati io e 5.200 si è ritirati là, quello che mi ha fatto il contratto, capito? Perché erano più di 10.000 euro che avevo io, ho visto gli assegni. E lui come si è permesso a ritirarsi 10.000 euro? Lui non si è ritirato 10.000 euro, io ci ho versato 10.000, per lui, però 5.200 me li hanno dati a me, 5.200 li hanno dati a quello, hai capito? Che ha fatto il contratto. Ah, lui ci ha guadagnato 5.000 euro. Bravo, ok, hai capito. E l'assicurazione, come cavolo si chiamava quell'assicurazione che c'era per il terreno? Era un'AXA. Adesso non mi ricordo. Quella che si fa fino a 70-80 anni, adesso non mi ricordo, che poi ti danno ti danno 1.200 euro ogni mese di pensione, un cazzo di pigli 1.200 euro di pensione. Che roba, fa una massa di ladri, insomma, Antonè. Lui praticamente si avrebbe dovuto prendere non 5.000, molto di meno, la sua percentuale sì, ma e lui lo poteva fare questo, cioè bisogna vedere tutte le carte e se no avrei anche denunciato. Io avevo fatto il contratto all'Alleanza Assicurazioni, se ti ricordi prima giravano per le case e facevano questo contratto qui, senza che l'avrei conosciuto. Io siccome lavoravo in Italia, da Usai, era venuta Luciana, e aveva fatto questo contratto qua, e io ho detto vabbè lo facciamo, gli ho detto se io a quell'età lì, se ci arrivo, ho detto c'avevo la pensione, ben venga, gli ho detto, per 1.200 euro al mese, e invece mano che passavano gli anni il cazzo aumentava la cosa, gli ho detto no, cazzo ogni mese non esiste, l'ho preso a scuola, ho detto fa la cosa, dammi quello che mi deve dare, ho detto che mi piglio l'appartamento in affitto, sono andato lì, mi sono pigliato l'assegno, poi mi sono dato assegno, ho visto, erano 5.200, e detto quell'altro assegno non è mio, no, dice, no, questo è per la persona che ha fatto il contratto, hai capito? Sono rimasto secco, sono rimasto, infatti ho detto da oggi in poi, l'altra assicurazione per me è salvato, ho detto, che non ci venga, detto, più nessuno a casa per prendermi più di culo, se no, ho detto l'assicurazione la faccio fare, in ospedale, ho detto, che l'ingesso alle gambe, l'ingesso. Allora, tentati a te erano, a darli a lui i soldi, così . Beh, intestatari ero io. C'era anche già più l'assicurazione, però c'era l'assicurazione tedesca. Cioè, il mio fratello si era fatta per un anno e mezzo, due, e non ci ha guadagnato quasi nulla. Anche lui l'ho preso per il culo, quindi non convengono più queste assicurazioni, infatti non ho più sentito parlare. Si è notato, sembrano sparite queste assicurazioni private adesso. No, già ci sono, ma non sono più come una volta. Sì, se vuole venire con una puntura, facciamo vedere 3 miliardi di euro e non li dà più, cioè gliene dà più la metà, gliene dà più, c'è la metà, gliene dà più, ne dà 2 miliardi, ne dà di, allora c'erano le lire, c'erano 5 milioni interessati aspettato a te. No, 5.002, c'era l'euro, già c'era. Ha fatto due assegni, uno l'ha dato a me e l'altro l'ha dato un tattico all'altro, hanno mai dato due gli assegni, cazzo, se non me l'avevi pigliato tutti e due non sono così scemo. Hai capito? Infatti ho detto, ma quell'altro assegno, ha detto, quello è mio, e dice no, quello dice del suo assicuratore, mi ha detto, la percentuale è sua, hai fatto. Cazzo diavolo, ma la presa per il culo che avete fatto, ho detto, tanti anni, ho detto, a me mia madre, ho detto, venivate a rompermi i coglioni ogni mese a darvi 20, 30 euro di aumento, col cazzo mi attaccate, ho detto, adesso. Adesso, pensavo che era la roba di quando c'erano le lire. No, c'era l'euro, c'era. Quindi, l'avevo fatta così, e l'ha presa per il culo, era. Siccome avevo conosciuto, l'ho fatto più che altro per, è trovato che sta iniziando a lavorare e che voglio aiutare, gli ho detto, e invece sono rimasto incappettato anch'io, cazzo. Ma tu non l'hai conosciuta, ma io sì, questa ragazza lì, cosa? Abitava la Andric, adesso non so dove abiti, se sei sposata, boh, sono da parecchio che non ho, la figlia di Salvatore Mustafa era, che non la vedo, anche se la vedo ma non la riconosco più, la figlia era buona, io non davo più azzurri. Non lo so. La verità. Boh. Adesso mi sono ricordato il cognome. C'è lo stesso cognome di Valeria. Quella che è nata a Grande Fratello. Era chi sa Valeria? Grande Fratello, la fanculo, l'isola dei famosi, che voleva il porcetto santo. Boh. Cazzo, Valeria Marini. Ascolta, io la televisione non la guardo, quindi se tu mi dici quello e quell'altro io non lo so solo per sentito dire, capito? Infatti, comunque avevo fatto contatto con loro, Libera Italia, c'era, e quindi avevo fatto il contratto. Dopodiché ho preso e eliminato tutto. Con quei 5.200 euro mi sono campato intorno ai 3-4 anni, forse 5, la verità. Usavo anche la moto, quindi sono andato bene. Cioè, prima allora questa roba costava poco. E batto bene, batto. Stiamo parlando degli anni 2000, così. Penso che dovrebbe essere un po' 2000, sì. La verità è che la memoria, devo controllare il contratto che avevo fatto, e quindi ti posso dire, quando avevo fatto il contratto con la Raimonda Bavia, quella che lavora la cognata di Zulino Auto, la casa l'ho piata da lì, capito? Di Corso Vittorio Emanuele. Sì, diamo la villetta. Cazzo, c'ha 20 appartamenti quella sassa di casa. Ha voluto solo tutti i soldi che sta facendo lei, cazzo. Alla forza di affittare a questi qua, cazzo. E tutte le volte che gli sequestravano la casa per prostituzione, dopo neanche 4 giorni gli togliavano i sigilli e lei era tranquilla. Perché lei non ne fregava niente, dice non io non posso, siccome ho impegni e cose se la sbrigava così, ho impegni di lavoro e cosa, non li faceva di nulla, se li mandava e boh, e tutto finiva lì. Sarebbe saltato così, e ha avuto di denuncia, cazzo, ma almeno la quindicina, lì c'ha... Allora, gli appartamenti cominciavano via la Marmora, poi Corso Vittorio Emanuele, poi via delle Muraglie, dopo la via delle Muraglie la via dietro, via delle Muraglie a casa, la parallela, poi ce ne aveva appartamenti in Corso Fico, figurati tu, tutto mezzo centro storico era suo, almeno una ventina di appartamenti a volte. Un giorno sono andato in questo appartamento e mi sono messo le mani in testa. C'era l'acqua che ne scendeva dal muro e mi fa questa qua, questa negra qua, dice sistema il contatto lei, vai a fare la cosa, tocchiamo a lei e fate una cagata, gli ho detto. Ci ho detto con proprio un cazzo, c'era proprio l'acqua al cucciolino che scendeva, attenta al contatto, ha detto, cazzo, ma tu hai detto, non toccare il muro, detto, per carità sono ci rimani secca, gli ho detto. Oh, Antonio, per carità, no, veramente, Borughiscia, però, tanti appartamenti per aggiustare nulla. Sì, l'umanità che c'era, lì all'angolo, come ti posso dire, visto il Corso Vittorio Emanuele, dove c'è quello che c'è l'agenzia che vende appartamenti, capito? Lì all'angolo c'è un 200 metri, prima di arrivare a quel palificio che c'è, c'era questo appartamento per la terra, mi sono messo il male in testa, non mi ha chiamato, dice, mi metto a posto le prese, e cazzo mi vuole mettere a posto, tu sei tutta scema, gli ho detto. Io non ti tocco proprio niente qua, gli ho detto, io ci rimango secco. C'era le gocce dell'acqua che scendevano nel muro, cazzo, dall'umidità che c'era. E tu vai, chiama l'Ela, gli ho detto, e avanti, perché io non ti faccio proprio niente, detto, me ne sto andando. Ma no, me ne sto andando, forse non hai capito nulla, tu hai detto, chiama la padrona di casa, avanti, io me ne gioco andente. Io qui non mi ammazzo, gli ho detto. Spegni il telefono. Luca, ci sei? Beh, allora, l'ho ascoltato, adesso dico la mia. Ok, buonasera. Buonasera, avanti. Stiamo a fare tutto, Antonello, stiamo a fare tutto. Pregato. E Antonello, notte, ciao Antonio. Ciao. Al telefono mi ha detto che... Anda Bex e Giulia. Che giornata oggi, guarda. Che è successo? Casino? No, sono ancora mezzo influenzato, quindi sono in fase di guarigione, ma più che altro influenza. Mamma mia, dopo non puoi andare manco a travagliare nulla. Resti in casa, ingabbiato. Non dico che mi sono riposato perché non riesci neanche a dormire, però... non ho fatto niente di che, non passa la giornata. Non è bello. Ui. Sai che fra poco mi si dormo, va giù un sonno. Vabbè, tu stai lavorando qui. Ma dimmi una cosa, stanno aumentando, il gas sta aumentando. Cappa. È un bel puro. Anzi, dico una cosa che pochi sanno. Noi abbiamo la riduzione del... cioè praticamente le bombole sono già scontate, capito? Quando per abbassare le bombole deve abbassare il petrolio, solo le bombole non abbassano, capito? Già il prezzo, ci abbiamo anche i cosimi già stampati, che ce lo dicono proprio, noi le accise ce le abbiamo già ridotte, se no la bombola avrebbe costato, un bel dinà avrebbe costato, a prezzo pieno. È un casino perché... Stanno tutto, Antonio. Vado a fare la spesa, trovo il nostro tavoletto, comprando sempre, quasi sempre le solite cose, io sono abituato, la cosa dei bambini, insomma, roba di casa. Si sono fatto pagare, mi è uscito un cazzo, ho fatto 220 euro. Ehi, non dirlo a me lo stesso, l'altro giorno ho comprato, non mi vengono quei auguri. Cioè, cazzo, ho speso un bel di soldi. Cioè, una roba da macchi. Ma chissà, adesso vediamo se aumentano questi figli. Non è possibile, no. Cioè, tutte le cose hanno aumentato. No, non aumentato tanti soldi. Cioè, uno di te ha fatto una grossa spesa per quel... non hai comprato quasi nulla. Allora, io mi ricordo che quando ho fatto la prima volta la spesa in Europarl, che era entrato in vigore nel 2002, era entrato in vigore proprio l'euro e basta, non c'era più la lira, perché nel 2000 c'era l'euro, però era in vigore anche la lira, quindi potevi fare lira e euro, era per metterci un po', abituarci un po', però nel 2002 è entrato in vigore solo l'euro. E mi ricordo, come se fosse oggi, un carrellone, l'avevo fatto apposta, adesso compro di tutto e di più, voglio vedere quanto spendo, e ho preso un carrellone, stava uno spillo, vedi Antonio, ho preso di tutto e di più, ho pagato 60 euro, 60 euro, tonde e tonde. Ma vorrei 200. C'è stato un aumento. Sì, ma io parlo anche di qualche mese, a confronto a qualche mese fa. L'altro giorno mi sono uscite quasi 100 euro di spesa, sempre, quasi sempre le stesse cose, ma dove siamo? Ma dove stiamo andando a finire? Un casotto, non proprio comprare niente. Purtroppo qualcosa devi sempre comprare, perché al minimo che tu puoi spendere, ma proprio limitandoti, sono 50 euro, ma proprio limitandoti mi... lo piglia chissà cosa. Non lo so, vabbè. Io parlo di me, quindi sono già una famiglia con due bambini, quindi ci sono le necessità, posso permettere di io colazione la faccio, quindi evito di... Boh, lì ci vogliono, ci vuole latte, ci vuole biscotti, ci vogliono, insomma, queste cose per fare colazione. Quelle le avrei evitate, per dire, però anche quelle vanno prese. Evitate fino a un certo punto, ai bambini non è che li vuoi di... non è che li vuoi di magna di... cioè, mi ti leva, cioè... E purtroppo ci vogliono i biscotti, ci vuole il cacao, ci vuole questo, il latte, mi vuole tante cose. Sì, sì, ma infatti ho detto, parlo di me, se non avessi avuto per dire i figli, ho detto quelle cose le avrei evitate. Siccome ci sono, bisogna comprare per forza. Sì, pure io da grande... cioè da quando ero piccolo, da grande, io il latte la mattina lo voglio sempre, non ve lo dai va. No, io no, io c'è una verità che mi piace, caspita, solo che mi fa un effetto, la tovarella mi fa, quindi ho dovuto mollare. No, io grazie a Dio lo sopporto bene, quindi me lo un bel bicchierozzo di latte me lo bevo, e come? È buon burro me, se non è di Ghido, di quello intero non è bevo io, perché non sento il sapore, capito? Certo. Vabbè, ma adesso per dire, ero in casa, ne ho approfittato, tanto non devo uscire, qualche bicchiere me l'ho bevuto, dopo tanti anni, È troppo buono però, dimmi la verità. Sì, mi è piaciuto perché l'ho rigustato nuovamente, ho notato che l'effetto me l'ha fatto lo stesso, ma ero in casa, quindi non ho problemi. Chi è avanti? Non lo so, ma quanto dai, ti devo lasciare che è pronta la pappa, devo mollare, dai. Nel caso se ne voglio sentire più tardi. No, io troppo mollo, mena da nanna. Va bene, allora ritieni salutato, dai. Ciao a tutti, ciao. Ciao, buonanotte. Antone, dai, buonanotte a tutti in generale, io chiudo. Luca, io chiudo se ci sei.